Europa 24. Oggi anche la Commissione europea celebra la giornata della memoria per ricordare le vittime della Shoah. Dure le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La costruzione dell'Unione europea rappresenta la risposta politica alla Shoah. La costruzione dell'Unione europea, la nuova Europa della pace e della democrazia, rappresenta la risposta politica storicamente più importante a tutto questo. E la coscienza del genocidio è stata uno dei motori fondamentali del processo di convergenza tra paesi democratici. Oggi l'Europa manifesta affanno di fronte a sfide nuove e impegnative, ma la nostra storia, la storia d'Europa e la Shoah ci dicono che il nazionalismo di ritorno non ci proteggerà dalle insidie nuove. È un'illusione alzare muri e ricercare negli stati nazionali un'inverosimile sovranità perduta. I nazionalismi generano diffidenza, rivalità crescenti, contrapposizioni, ostilità. Una china pericolosa che abbiamo vissuto nel Novecento e alla quale statisti illuminati hanno contrapposto l'integrazione europea. È allarmante che tutto questo rischi di appannarsi in Europa, nella sensibilità comune e nell'agenda di alcuni governi. No a nuovi muri, l'abbiamo sentito il presidente Mattarella, nuovi muri che invece alcuni stati stanno erigendo per frenare l'arrivo di migranti. La cattiva cooperazione con la Bulgaria, le falle nel processo di identificazione e registrazione, ma anche la scarsa qualità dell'accoglienza e dei rimpatri, sono alcune delle carenze rilevate dalla Commissione europea sul controllo delle frontiere esterne greche e sulla gestione dei migranti da parte di Atene. Quei buchi che giorno dopo giorno alimentano il flusso di migranti sulla rotta balcanica verso il nord Europa. Bruxelles oggi dovrebbe metterli nero su bianco nella cosiddetta bozza sulla valutazione del funzionamento di Schengen nei vari paesi dell'Unione. In particolare in Grecia, porta di accesso di migliaia di migranti. Si tratta del primo passaggio di un iter che dovrebbe concludersi entro il 15 febbraio. Da lì scatterà una sorta di ultimatum alla Grecia, che avrà 3 mesi di tempo per correre ai ripari e rinsaldare i confini. Se non riuscirà a farlo, rischierà l'uscita da Schengen. La valutazione di gravi carenze nei controlli esterni alle frontiere in Grecia servirà per avviare l'iter per l'attivazione dell'articolo 26 del Trattato di Schengen, e cioè l'estensione fino a 2 anni dei controlli alle frontiere interne per uno o più paesi. Ma parallelamente si discute anche della revisione dell'accordo di Dublino, e cioè della cancellazione dell'obbligo per il paese che accoglie per primo un migrante di gestirlo e dargli eventualmente asilo. In questo modo si renderebbe più equo il processo di redistribuzione, un piano che però richiede la presenza di hotspot nei paesi di arrivo, e cioè Italia e Grecia, e anche qui si registrano alcuni ritardi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Un giro di vite sul sistema delle motorizzazioni in Europa e sul divieto dei software truccati per evitare un nuovo caso Volkswagen. È la proposta adottata oggi dalla Commissione europea, con cui intende mettere fine a quelle pratiche che finora hanno consentito di violare la legislazione europea sulle emissioni. Intanto, oggi l'antitrust europeo ha imposto una multa a 3 società giapponesi di auto. Multa milionaria, Melco, Mitsubishi Electric e Hitachi, per aver partecipato a un cartello con una terza società giapponese, la Denso, sulla componentistica auto che riguardava alternatori e sistemi d'avviamento. Ad imporre la sanzione da oltre 137 milioni di euro è stata l'antitrust UE. Tutte e tre le società giapponesi, per oltre 5 anni, tra il 2004 e il 2010, si sono coordinate per fissare i prezzi dei bandi di gara e chi avrebbe dovuto vincerli. Hanno condiviso informazioni sensibili su progetti d'auto per spartirsi e hanno scambiato informazioni commerciali sensibili. E anche se il cartello è avvenuto al di fuori dell'Europa, ha avuto comunque un impatto sui consumatori europei. Oltre 110 dei 137 milioni di multa scontati per aver accettato di cessare il cartello spettano ora alla Melco Mitsubishi Electric e quasi 27 milioni ad Hitachi, mentre la Denso non è stata sanzionata perché ha rivelato l'esistenza del cartello stesso e ha collaborato all'inchiesta. Lo scioglimento dei cartelli è una priorità fondamentale per la Commissione, soprattutto per quanto riguarda importanti beni di consumo come le auto, ha avvertito il commissario europeo alla concorrenza Vestager. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.